の街をね。 Radioazione punto org Radioazione Controinformazione, letture, provocazioni, musica Radioazione Radioazione punto org Azione, letture, provocazioni, musica. E dove mi porti di bello, Ashlen? È la calle, coglione. La frase di Ashlen fa arrossire in viso Mark e genera le risa generali. Il gruppo di ribelli prepara tutta l'artiglieria. Dopo circa 15 minuti sono pronti davanti alla porta per uscire. Beppe, in un'unica frase, dà un ultimo consiglio a tutti. Mi raccomando, da qui alla Torre M niente cazzate. Il sorriso accennato, gli occhi carichi di adrenalina e anche un po' di apprensione, che non guasta, giusto per tenere a freno l'istinto. Sono gli ingredienti che ognuno dei ribelli ha stampato sul proprio volto. Beppe, quasi bisbigliando, libertà o morte. Stavolta sono d'accordo con te, è giù un'altra risata di Mark. Il gruppo formato da Mark, Ashlen, Rose, Atin, Tova, Beppe e altri quattro ribelli escono dalla casa e evitano di attraversare le strade più grandi imboccando i vicoletti più stretti del centro di Nazero 13. Arrivati a poche centinaia di metri dalla Torre M, il gruppo di ribelli si ferma per darsi le ultime indicazioni. Sono tutti accovacciati dietro una siepe di un piccolo pezzo di giardino e preparano le armi con molta prudenza e accortezza, quando alle loro spalle si materializza un gruppo di 10 Tarspok sorvegliati dall'alto da altrettanti Insect. Prima che Atin se ne potesse accorgere, una sventagliata di mitra partita da un Tarspok la lascia senza vita, insieme a Tova e due ribelli. Ne segue uno scontro a fuoco senza barriere, con le due parti separate da pochissimi metri. Gli Insect, rimasti solamente a sorvegliare dall'alto lo scontro, una volta visti i loro colleghi Tarspok soccombere sotto il fuoco nemico, scendono come una flotta aerea impicchiata verso il gruppo di ribelli che trova rifugio sotto un porticato. I ribelli sono rimasti in 6, hanno preferito rifugiarsi sotto il porticato perché in quel modo gli Insect non avrebbero potuto attaccarli dall'alto. In più, con le spalle coperte dal muro, hanno solo da puntare bene le armi di fronte a loro. Giusto il tempo di appoggiarsi tutti con le spalle alla parete che gli Insect, come un vero e proprio sciame di vespe, sbucano dall'alto del porticato e senza nessuna paura di essere nel mirino dei ribelli gli si fiondono contro. Quasi contemporaneamente i fucili dei mitra dei ribelli iniziano ad urlare il loro odio contro gli Insect, che esplodono come bottiglie piene di una sostanza collosa e gialla che schizza un po' dappertutto, compreso sui volti dei ribelli. Quando gli ultimi due Insect scappano per mettersi in salvo ed i ribelli pensano di essersi riusciti a salvare, da un tombino poco distante salgono su una quindicina di topi che sembrano solamente animali spaventati dal suono della polvere da sparo. I ratti si infilano dietro una siepe e c'è quasi un sospiro di sollievo generale tra i ribelli. «Mi sembrava strano, abbiamo distrutto il loro nido proprio ieri!» Con la voce affaticata dallo scontro, Mark guarda incessantemente la siepe. «Non ci dimentichiamo che ci sono le ultime due vespe del cazzo su questo tetto, quindi facciamo attenzione e cerchiamo di uscire da qui sotto e raggiungere la torre». Ashlen sembra la più serena di tutto il gruppo, ma dura pochissimo quando questa sua adrenalina, che la fa sentire forte e determinata, perché puntando lo sguardo verso la siepe, vede spuntare gli anfibi e metà gambe di Atin. La ragazza ha quasi un mancamento e in meno di un secondo scende con tutto il suo peso giù, piegandosi sulle ginocchia e portandosi le mani al viso bagnate di lacrime. Dietro la siepe c'è anche il corpo di Tova ed i ribelli, prima di andarsene, vogliono assicurarsi che i loro due compagni siano veramente morti. Siamo in 6, schiena contro schiena, formiamo una doppia fila di linea da 3 che guardano in lati opposti. In questo modo, se quelle due vespe ci volessero attaccare alle spalle, saremo coperti. Idem se sbuca qualche sorcio dal cespuglio. Mark, ancora stravolto, si rivolge al resto del gruppo per andare a recuperare i corpi di Atin e Tova. Senza minimo dissenso, si forma subito la doppia linea che molto lentamente esce fuori dal porticato e si dirige verso la siepe. Nessuno fiato, anche i respiri sembrano essere ammutiti e in lontananza si sentono solamente rumori di vetri che si spaccano, di grossi mezzi e di urla di vendetta. Sono quelli dei ribelli che hanno appena messo fine alla storia della Torre G e si stanno dirigendo verso la Torre M con i mezzi carichi di armi. Zero, 13. 4 ore 10. Radiazione, ultima diretta dell'anno 2014, oggi lunedì 29 dicembre, e non lunedì 23 come avevo scritto nel post della settimana scorsa, che era martedì, però per noi è sempre lunedì, quindi oggi non c'è il grigio, c'è il freddo cane ad accompagnarci nella diretta, diretta che come tutti i lunedì, lo ricordo, prevede controinformazione, letture, soprattutto le letture. Abbiamo iniziato come di consueto con una 013 e poi si continuerà per tutto il resto della diretta attendendo la controinformazione e la lettura di Nessuno ci salva di Valerio Evangelisti, Sergius Piasecki. Abbiamo letto tanto di Valerio Evangelisti, arriva in automatico Sergius Piasecki, Nessuno ci salva. Allora ricordiamo subito gli indirizzi per Radiazione: radiazione@autistici.org per chi vuole mandare comunicati, scritti, materiale da far apparire sul sito di Radiazione, oppure anche consigli sui libri da leggere durante le giornate di lettura su Radiazione il lunedì, lo ricordo sempre, non testi anarchici ma testi di narrativa, romanzi, che comunque hanno delle tematiche bene o male affini alle tematiche che poi ritrovate sul sito di Radiazione. Questa volta su Sergio Spiasecki, Nessuno ci salva, storia di dritti e di merli, ladri e derubati, in cui ci sono anche un bel po' di dritte per chi vuole campare di non lavoro. Questi era per quanto riguarda l'indirizzo, gli indirizzi per Radiazione, l'indirizzo utile per scrivere Radiazione. Invece il sito è radiazione.org, dove potete leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata, dirette d'azione attraverso i podcast, c'è la pagina dei podcast, là ci trovate tutti i podcast degli ultimi quasi 3 anni, e dove potete scaricare un bel po' di materiale dalla pagina di download, tutto materiale messo gratuitamente a disposizione da vari compagni internazionali, CD, libri, manifesti, opuscoli, tutto. Tra l'altro ci sono anche le edizioni Radiazione, che ultimamente stiamo uscendo con un bel po' di opuscoli che non stampiamo noi, un giorno li stamperemo se vogliamo fare un baghetto, però stanno lì per chi li vuole scaricare. Ricordo che chi scarica e li mette e li diffonde non deve mandare soldi né a Radiazione né a compagni che l'hanno messa a disposizione, ma nelle casse che si occupano dei compagni detenuti, i compagni anarchici detenuti. la radio trasmette su server anarchia.net, messa a disposizione dal compagno di Anarchist Library, che salutiamo e ringraziamo sempre. Ora ci ascoltiamo un brano di Rabbi Jung prima di farvi sentire l'ultimo regalo che mi hanno fatto alcune compagne. Si chiama Il Maialotto Poliziotto. Ed lasciamo per e ora è diventata la mascotte di Radiazione. Allora, Rabbi Jung, You Like Justice, e poi dopo si torna qui e si inizia subito con la lettura di Nessuno ci salva, no, di Valerio Evangelisti. Put an iron smile on your face, 'cause the cops don't care if I get a raise. Put an iron smile on your face, 'cause the cops don't care if I get a raise. Walk on the streets with a mind in my peace, living on what I call it, no need to violence. What we do, now we gotta say true, call the crew, we gotta do. You lock justice. On the phone and I'm an insect on the road. Inside of the borderlands and you see my ballot. But what you your noise, I'm living by the code. I'm bloody ass to the rest about to rip what you have sold. So don't try and talk like I'm a love and support. I look you straight in the face and maybe my man for jokes. The flash you see a kid is no protection. When are you locked in this warrior's favorite weapon? I don't see no cops around. No cameras in this part of downtown. I don't see no witnesses. Justice is blind, but my you love never misses. To my eye, bing bing on your skull. See your eyes got dull. This is the you love justice. The cold of the concrete. Your hands decided that you and I shall meet. Relax, you love me feeding us to the talker. We sell the chill and the potion to the walker. You know that I'm no use to worry, but I have some fun. Now it's time I'm putting her like the sun. I see no cops around. La polizia fa la conoscenza di Jan. Il vicolo sassoso si distingueva dalle altre viuzze straduncolo del quartiere della Fiera dei Cavalli per il fatto che non vi si trovava un sasso neanche a pagarlo. Quando in autunno le massaie avevano bisogno di pietre per pressare la ruota di legno che si mette nei barili dove si conservano cavoli e cetrioli in salamoia, dovevano andare a cercarle lontano, talvolta anche in città. La casetta che Jan, consigliato dallo zio, aveva comperato per la sua famigliola era abbastanza carina. Componeva di 3 stanze e di una cucina. Era quasi nuova. Nel cortile c'erano un pozzo e un deposito per la legna. La casetta non si trovava proprio sulla strada, ma ne era separata da un piccolo appezzamento di terreno coltivato a giardino. Dietro c'era un minuscolo frutteto con una 15ina di alberelli, tra i quali si poteva scorgere, in fondo, il grigio muro del cimitero militare. Gli abitanti del vicolo dicevano che si vedevano in certe notti di luna i morti levarsi dalle tombe e parlottare tra loro seduti in crocchio. La madre di Jan, ora proprietaria grazie al figlio, era completamente cambiata. Già da tempo non era più angustiata da preoccupazioni finanziarie, ma ora si sentiva addirittura una signora da quando aveva una casa tutta sua. Jan le comperò anche una mucca, dei polli e un paio di maialini. Così la donna si affaccendava tutto il giorno per la casa e le dipendenze, lavorando nel suo minuscolo potere, se non fosse stato per il pensiero del figlio che, secondo lei, abusava troppo della sua salute lavorando in commercio spesso anche di notte, la vita sarebbe sembrata meravigliosa alla signora Nazevic. Ela, invece, era piuttosto scontenta del cambiamento. Si era abituata a stare in mezzo alla gente, a passare per un cortile dove si aggirava sempre qualcuno, a uscire ogni momento in strada. Ormai era una ragazza formosa, bellina e piena di temperamento. La vita, o piuttosto il suo falso e ingannevole luccichio, la soggiogava. Jan, come fratello maggiore, sentiva il dovere di proteggerla e di farle da tutore. Si interessava persino al suo guardaroba e spesso le dava del denaro perché si comprasse un abitino o un paio di calze. Una volta le disse: «Se hai bisogno di qualcosa, dillo a me, ma ricordati, se ti insudicerai con qualche bell'imbusto, vi farò schizzar fuori i denti a tutte e due». Ella rispondeva con smorfiette o mostrando la lingua al fratello, e tuttavia un giorno lo tranquillizzò dicendogli seria seria: «Non credere che sia così stupida, sai? So benone che cosa vogliono da me gli uomini. Io invece voglio trovarmene uno che mi baci la punta delle scarpe, e quando l'avrò trovato lo sposerò». Un'altra smorfietta accompagnata da una strizzatina d'occhio ed ella spariva. Le cose invece sembravano non andare troppo lisce nell'osteria gestita dallo zio di Jan. Anche lui, che pure ci aveva investito i 2/3 del capitale, non vedeva un soldo di utili. Lo zio si era ficcato in testa di ingrandire e abbellire il locale, e così gli utili bastavano appena a finanziare tutte le sue megalomanie. «Me l'hai fatta, zio, a sentir te si doveva far soldi a palate, invece ho paura che non avremo neppure da comprarci un tozzo di pane con le rendite di quella baracca». «Ma santo Dio, dammi un po' di tempo», si giustificava Filippo, «e vedrai che ne pioveranno di palanche. Hai così tanta fretta? Se hai bisogno del denaro non hai che da dirmelo, e te ne darò io finché vuoi. L'osteria è tua, io non faccio che amministrarla. Se non ti va, genio, vendila e buonanotte ai suonatori, ci caverai sempre il doppio di quello che ci hai speso». Il giovane liquidò l'argomento con un gesto di noncuranza: «Ma fa come ti pare». E lo zio faceva dei veri e propri miracoli. Poco dopo arrivò all'osteria un biliardo, poi un frigorifero, poi un nuovo buffet. E l'osteria era frequentata da una clientela sempre più numerosa, e con tutto ciò di utili neppure l'ombra, perché Zardon continuava a impiegarli in sempre nuove migliorie. Jan seguitò ad abitare dove stava prima, al numero 157 della via Zakarievska. Aveva deciso di non muoversi per molte ragioni, e soprattutto perché presentiva che un giorno o l'altro lui sarebbe stato pizzicato come tutti gli altri, e perciò non voleva esporre la famiglia a perquisizioni e interrogatori. Inoltre, abitandolo da solo, si sottraeva più facilmente alla tacita sorveglianza della madre, che senza farsi notare lo seguiva in ogni suo passo. Non aveva bisogno di contar fandone per nascondere la sua vera affinità. Oltre a queste considerazioni, lo aveva deciso di rimanere per la vicinanza con Baran, il suo grande amico e maestro. La madre cercò varie volte di convincerlo ad andare ad abitare con lei nella nuova casetta, ma Jan rifiutò sempre, adducendo come pretesto di dover abitare nel quartiere dove svolgeva il suo lavoro, sia con lo zio Zardon, sia con un meccanico col quale era entrato in rapporti d'affare. Inoltre, spiegava che il rimanere là non gli costava nulla perché l'affitto della casa occupata da Baran compensava le sue spese. Anche la vicinanza di Marusha aveva avuto il suo peso nella decisione del ragazzo, da quando la donna aveva rinunciato, e non senza furbizia, al ruolo di protagonista nel loro romanzo, egli l'apprezzava sempre di più, era gentile e premuroso con lei e sapeva che anche aiutarla materialmente in modo così delicato da non urtare mai la sua suscettibilità. Le propose, per esempio, di prenderlo a pensione e di preparargli i pasti. Era il solo modo di far accettare del denaro senza offendere il suo orgoglio di donna abituata a non dipendere da nessuno. La Lubova era ormai diventata indispensabile nella sua serenità di spirito. Paragonandola alle altre donne che occasionalmente erano state sue amanti, Jan doveva riconoscere che Marusha era superiore a tutte. Era sempre elegante e carina, aveva un temperamento ardente e lei sola aveva saputo dominare i suoi sensi. Passavano i giorni e il denaro diminuiva a vista d'occhio e Jan era sempre in cerca di un lavoro negli ambienti frequentati dalla mala. Si buttava in tutte le imprese possibili e immaginabili, assistito sempre da una fortuna a tutta prova. Pur non avendo una specialità ben definita, lo prendevano ora per un provettolato d'appartamenti, ora per un truffatore di classe, ora per un borsaiolo consumato. In realtà Jan era un po' di tutto e non c'era alcun aspetto della vita che non attirasse la sua insaziabile curiosità. Jan si sentiva spinto verso l'esistenza di ladro non tanto dalla necessità di procurare i mezzi di sussistenza a sé e alla famiglia, quanto dal lato avventuroso e romanzesco di tale esistenza. Baran aveva smesso da un pezzo di andare in cerca di lavoro e riposava sugli allori, mentre lui invece continuava a vagabondare di covo in covo, trovandosi così di frequente nell'occasione di essere invitato a prendere parte a imprese ladrische. Tuttavia, accettava soltanto quando si trattava di imprese che eccitavano la sua immaginazione. Non concepiva il lavoro se non richiedeva audacia, estro e fantasia. E questo non è poco. Il mestiere di ladro è particolarmente difficile. Esige, oltre che una buona dose di fegato e un acuto spirito di osservazione, rapidità di decisione e soprattutto presenza di spirito, le qualità che nella vita normale rendono un uomo capace di diventare un dirigente, un detective, un banchiere, un inventore o anche uno scrittore. Bastano appena a formare un comune lato di professione. La società si depaupera delle sue intelligenze migliori, costringendo questi che sono i più dotati, intraprendenti e coraggiosi suoi figli a uscire dal suo seno e a muovere le guerre. Una volta estraniati da essa, sono pochissimi quelli che ritornano, perché a poco imparano a disprezzare la società dalla quale sono messi al bando. L'uomo onesto diventa per loro un essere ripugnante, codardo, senza carattere e senza cure, ipocrita e ingiusto. La morale borghese non si impone al rispetto dei dritti, che sanno come spesso venga sostituita dall'astuzia e dalla furberia. I ladri, invece, hanno la loro ferrea etica, alle cui leggi nessuno può sottrarsi. Anch'essi hanno la loro parola d'onore a cui tengono sempre fede. Ogni violazione viene severamente punita, ma bisogna dire che è estremamente raro che ciò accada. Per i professionisti della mala, un dritto è membro di una società chiusa a cui sente di appartenere corpo e anima. E anche se accada che egli ne esca, il vincolo morale che lo lega a quel mondo esiste sempre ed egli è sempre pronto ad aiutare gli antichi compagni. Un agente di polizia, invece, anche se possedesse tutte le qualità del ladro, resta sempre un cane, un estraneo. Chi scrive questo libro, per esempio, nonostante i suoi 14 anni di carcere, un'esperienza che farebbe invidia a molti professionisti, è, come scrittore, soltanto un merlo ammirato e stimato, ma ormai estraneo alla mala. E a nulla serve la sua attività clandestina, né il suo passato, né la lotta che conduce da anni in favore di tutti i diseredati. Essi lottano per l'esistenza e hanno ragione di diffidare di chiunque non appartenga alla loro cerchia. I ladri disprezzano la società dei merli. Essi sono convinti che è vile, falsa e mendace. Il merlo per loro è onesto solo per opportunismo. Se potesse mettere da parte la sua rispettabilità e agire allo scoperto, secondo i suoi veri istinti, ne farebbe peggio dei ladri. i dritti conoscono i nostri lati deboli, la nostra miseria morale, e anche se siamo abilissimi nel nasconderla agli altri, ecco perché non possono avere alcuna stima di noi. Forse, leggendo queste righe, qualcuno si sentirà offeso nella sua tranquilla coscienza di onesto, ma io lo sconsiglierei dal chiedere spiegazioni. In tal caso dovrei incominciare con lo strappare la maschera che nasconde il vero volto di tanti uomini nella nostra società portati in su dalla massa. Né vorrei che questi giudizi si attribuissero a me solo come scrittore appartenente a un dato popolo. Il mondo che io descrivo è la triste eredità di tutti i popoli e di tutti i paesi. Yeah. E questi sono Motormark con il brano Blame. Ora, dopo la prima lettura di oggi di Nessuno ci salva di Sergio Piasecki, passiamo alla controinformazione con un testo che è stato preso e tradotto da un sito cieco, ed è, riguarda un rapporto dello Stato cieco sulla collaborazione tra anarchici. Il testo è stato preso da Grecia Vuogniu, e pubblichiamo un frammento del rapporto di relazione tra estremisti dell'Europa centrale e orientale e della Grecia. Il rapporto: la violenza estremista è considerata una seria minaccia alla moderna sicurezza europea e globale, terrorismo e altre strategie di guerriglia. Gli estremisti ambientali da differenti paesi e regioni sono adesso in stretto contatto e si stanno rafforzando a vicenda. Una parte importante dell'odierno estremismo internazionale consiste nello scambio delle strategie e degli elementi tattici. L'apparizione dell'estremismo in un paese o in una regione è collegata allo sviluppo dell'estremismo in altri paesi o regioni. Questo processo diventa tipico quando parliamo dell'influenza dell'estremismo greco sugli estremismi in Europa centrale e orientale. Questo articolo esamina le campagne e i collegamenti all'interno degli ambienti estremisti di estrema sinistra e dell'estrema destra e degli estremisti islamici. L'estremismo di estrema sinistra. Con la sinistra in Europa centrale e orientale presenta una tradizione di lunga data, con radici nel XX secolo, quando i regimi comunisti, soprattutto in Cecoslovacchia, strafuggiti dalla Grecia durante la guerra civile degli anni 40-50. Questa tradizionale diaspora greca non è politicamente attivo, eccetto qualche comunista estremo. Il Partito Comunista Greco KKE e la sua ideologia rappresentano un modello per un partito comunista dogmatico, soprattutto in Repubblica Ceca e in Slovacchia. Tuttavia il KKE non sostiene la violenza terrorista e della guerriglia dei giorni nostri, ma mantiene invece una linea marxista-leninista tradizionale della rivoluzione di massa. I suoi comunicati sono tradotti nelle lingue dell'Europa centrale. C'è un nome che nemmeno metto a pronunciare, è in greco, è in ceco. I giovani estremisti dell'estrema sinistra della Grecia ed Europa centrale e orientale hanno iniziato un'intensa collaborazione durante il combattivo movimento anti-global tra la fine del XX secolo e l'inizio del XXI. I Black Bloc e altri attivisti militanti si sono incontrati in diverse manifestazioni di massa accompagnate da scontri. Gli attivisti greci hanno visitato Praga durante le proteste contro il summit della Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale nel settembre 2000 e durante una protesta contro il summit della NATO nel 2002. Gli attivisti militanti dell'Europa centro-orientale sono stati ad Atene e nelle altre città greche, soprattutto a Salonicco, a Social Forum Europeo del 2006. Da allora sono rimasti in costante contatto con la comunità greca. Quando nel 2008 iniziò la cosiddetta rivolta greca, gli estremisti dell'Europa orientale lanciarono una forte campagna a casa propria per sostenerla. Sono nati siti web dedicati specificamente alla situazione in Grecia, soprattutto il sito web polacco Grecia in Fiamme. Sono state pubblicate in lingua polacca le dichiarazioni di gruppi combattenti terroristi greci, inclusa una sigla che è scritta sia in greco, che poi sarebbe la cospirazione delle cellule di fuoco e dei suoi affini, cellula Nicola e Alfredo Fai 2013. La crisi greca è, oltre alla crisi in Siria, anche uno dei tanti temi principali del sito web cieco, comunista e radicale, lotta di classe. Alcuni estremisti di estrema sinistra dell'Europa centrale e orientale sono coinvolti anche nel turismo combattivo in Grecia, altri invece semplicemente lavorano là, unendosi alle strutture anarchiche locali, inclusi gruppi che usano la violenza. Il caso più famoso di questo tipo era il caso di Andrew Mazurka, chiamato l'ultimo detenuto della rivolta greca. Nel 2008 è stato condannato in Grecia a 7 anni di prigione per aver partecipato agli scontri durante la manifestazione. nel dicembre 2012 è stato deportato al carcere polacco per scontare il resto della sentenza. In Polonia, nella Slovacchia e nella Repubblica Ceca sono state organizzate manifestazioni e campagne per questo trasferimento, in Polonia in particolare. Nell'Europa centrale ed orientale sono state condotte anche operazioni combattive in relazione all'estremismo di estrema sinistra in Grecia. Queste azioni si sono svolte soprattutto in Repubblica Ceca. Nell'aprile 2010 un collettivo Angry Brigade ha attaccato con Molotov l'ambasciata greca a Praga. L'attacco era dedicato al detenuto anarchico greco Yannis Dimitrakis. Nel 2010-2011 nella Repubblica Ceca e in Slovacchia una dozzina di sportelli autostradali sono stati distrutti e almeno uno degli attacchi commessi da un gruppo di nome Lotta Rivoluzionaria è stato ispirato dalla Grecia. L'attacco è stato dedicato all'anarchico greco Lambros Fondas. Negli anni recenti notare l'impatto delle azioni dirette commesse dagli estremisti greci e italiani e dai terroristi dell'estrema sinistra. Può essere notato anche un sostegno alla lotta antifascista della sinistra greca, soprattutto contro l'Alba Dorata. Questo è un importante elemento di collaborazione tra estremisti di estrema sinistra della Grecia e dell'Europa centrale e orientale. Questo era il testo che è stato trovato e abbiamo deciso di tradurre. E nazioni est europee, quando parlano di estremismo di sinistra, fanno riferimento anche agli anarchici, perché per loro l'anarchismo è estrema sinistra, mentre l'anarchismo non si pone né a sinistra, né a destra, né a centro, è fuori da tutto ciò. Però, vabbè, siccome loro ci posizionano come estrema sinistra, era normale che tradurre il suo testo e diffonderlo, anche perché dalla Repubblica è un cazzo. Però si vede che iniziano a mobilitarsi le varie nazioni europee, insieme all'Eurogenfor, la polizia europea, sul caso specialmente riguardando gli anarchici, e in Cile con tutto quello che sta avvenendo e che abbiamo letto già e parlato nelle scorse dirette d'azione. Allora, questo era per quanto riguarda il rapporto dei servizi della Repubblica Ceca. Ora ci ascoltiamo un brano. Il brano è di Enin Elias, New Order, e poi dopo si torna qui con una nuova lettura di Nessuno ci salva di Sergius Piasecki. Nella vita quotidiana Jan era un ragazzo buono, sensibile e di sentimenti delicati. Bastava parlargli e vederlo per convincersene. Anche il suo aspetto era piuttosto quello di un figlio di una buona famiglia borghese. Forse per questo i dritti lo avevano soprannominato il signorino. Con le persone sincere, generose e disinteressate era di bontà senza limiti, ma di fronte alla cattiveria, alla viltà e all'egoismo si chiudeva in se stesso e bisognava aspettarsi da lui qualche brutto tiro. Quando lavorava in società con altri della mala, cercava di prendere sempre su di sé la parte più difficile e rischiosa, ma non si vantava mai dei suoi successi e non lo rinfacciava a chi ne aveva approfittato. Quando si trattava di dividere il bottino, si mostrava disinteressato, ma non sopportava il sotterfugio e l'inganno. Rubava, si divertiva e viveva coi ladri come con dei compagni fidati, aiutandoli quando era necessario come un fratello. Ed essi lo sentivano col loro sicuro intuito di animali braccati. Jan era accolto dovunque con simpatia. Tutti lavoravano volentieri con lui e volentieri stavano in sua compagnia. Spesso nei casi più complessi chiedevano il suo consiglio perché, nonostante la sua giovane età, dimostrava di avere un fiuto infallibile e una rara lucidità nel giudicare gli uomini e le situazioni. In primo piano metteva non il freddo calcolo o la semplice tecnica di certi mestieranti, ma la sorpresa, la fantasia, la prontezza nel dominare l'imprevisto. Il lavoro era nello stesso tempo per un divertimento per lui. Spesso accettava di partecipare ad un'impresa solo per provare un'emozione o per fare una risata alle spalle di chi restava gabbato. Un giorno Ignazio gli propose di vendere acqua per alcol ed egli accettò subito. Presero delle lattine e le riempirono di acqua quasi fino al collo, poi vi introdussero dei tubetti che si adattavano perfettamente alla bocca dei recipienti e vi versarono dentro dell'alcol. In tutto adoperarono un mezzo litro di alcol, mentre ogni lattina aveva la capacità di 10 litri. Bisbigliando misteriosamente all'orecchio dei merli, già scelti in precedenza, Jan proponeva loro l'acquisto a buon mercato dell'alcol, che allora era quasi introvabile sul mercato e perciò apprezzatissimo. In un solo giorno vendettero in questo modo 70 litri di acqua. Un'altra volta fu il piccolo a rivolgersi a Jan perché lo aiutasse a vendicarsi di una ricettatrice che, dopo aver preso da lui della merce, non gliel'aveva più voluta pagare, dicendo che aveva dovuto gettarla via perché era variata. E i due amici decisero di beffarla, estorcendole nello stesso tempo il doppio della somma che si era rifiutata di sborsare. Si recarono di sera da un certo Siron, specialista dell'abigeato, che aveva un magnifico cane di razza, un Doberman grosso come un vitello. La bestia aveva perduto nelle perturbazioni della guerra il suo padrone e Siron, che se la intendeva meglio con gli animali che con gli uomini, l'aveva preso sotto la sua protezione. Jan e il piccolo gli esposero il loro progetto. I ladri sono felici come Pasqua quando possono fare una burla a chi se l'è meritata e perciò Siron fu ben lieto di poter essere utile alla spedizione punitiva contro l'esosa Megera. Così, il terzetto, seguito dal cane, si recò la stessa sera, sul tardi, nei pressi della casa dove abitava la ricettatrice. Là Siron svolse il sacco che teneva sotto il cappotto e vi fece entrare il cane. Il Doberman, docilissimo come sempre alla volontà del padrone, flemmatico e pasciuto, non elevò nessuna protesta. Il sacco venne legato e Jan, con l'aiuto dei compari, se lo caricò sulle spalle e poi andò a bussare alla porta della ricettatrice. La salutò quando la vecchia venne ad aprire. «Salute, che cosa vuoi, giovanotto? Vendervi a buon mercato un vitellino?» «E chi ti ha detto che mi interesso a queste faccende?» La donna guardò Jan sospettosa. «Me l'han detto Naga e il Turco. Se non lo volete, pazienza, amici come prima, lo porterò alla zipa. Abita giusto un po' più lontano, ma in compenso non fa delle domande così stupide». La donna si asciugò le mani bagnate, afferrò il sacco a due mani e provò a sollevarlo. «Quanto vuoi per il vitello?» 14 rubli, sacco compreso». Era meno della metà del prezzo normale. La ricettatrice accettò immediatamente e, poiché Jan diceva di aver fretta, gli consegnò subito il denaro, convinta di avere a che fare con un pivellino. Il giovane uscì e assieme ai due compagni si appostò dietro ai vestiti per assistere all'ultimo atto della commediola. La vecchia, contentissima dell'affare concluso, slegò il sacco e lo aprì, aspettandosi di vederne uscire il vitello. Il cane, piuttosto stufo di essere rinchiuso, balzò fuori con un latrato di gioia, sbadigliò rumorosamente e si stirò. Poi, nella miglior disposizione di spirito, mosse incontro alla donna ammutolita dal terrore. Essa Lanciò un urlo, balzò sul letto e di là, passando sul comò, si inerpicò sulla stufa mentre dietro le finestre riecheggiavano matte risate. Furiosa, la donna riuscì finalmente a sbarazzarsi del non gradito ospite che, del resto, si comportava molto decentemente, se non si può sopravvalutare il fatto che divorò in un batter d'occhio un pollastro appena preparato per il pranzo del giorno dopo. I tre matacchioni ritornarono soddisfatti verso la Komarovka. Siron rideva ancora, dando manate sul dorso del cane che lo aveva raggiunto di corsa appena gli era stata aperta la porta. Continuava a leccarsi il muso dopo la succulenta cenetta fuori programma e Jan offrì al piccolo l'intero ricavato della vendita del vitello. L'amico non ne voleva che una parte, ma Jan insistette perché accettasse tutto, affermando che al momento non aveva bisogno di una somma così irrisoria. Al piccolo, invece, sfortunato come pochi, quel po' di denaro arrivava proprio a fagiolo. Pochi giorni dopo, Kazik Moretsky raccontò a Jan che, recatosi a visitare un appartamento, aveva trovato nel corridoio al pian terreno la porta di un locale adibito a magazzino, che però non gli era riuscito assolutamente di aprire quel grimaldelli, benché la serratura apparisse di quelle normali. «Sarà chiuso dall'interno con un catenaccio», disse Jan. «Impossibile, non ci abita nessuno e non ci sono finestre». Calata la sera, si recarono insieme sul posto. Jan tentò di aprire la porta, ma i suoi sforzi furono inutili. Il catenaccio si spostava sotto la pressione, ma poi scattava, ritornando nella posizione di prima con un rumore che, nel silenzio della casa, acquistava un'intensità preoccupante. I tentativi ripetuti di Jan non approdarono a nulla. Il caso si presentava abbastanza enigmatico. Tornarono a mani vuote, senza aver concluso nulla. L'indomani Jan andò a trovare Azure e gli espose minuziosamente come stavano le cose. Il ladro sorrise, avendo subito capito di che si trattava, e diede a Jan delle istruzioni precise circa il modo di domare la serratura ribelle. Quella sera stessa, dopo il crepuscolo, Jan ritornò sul luogo della sua prima sconfitta e, manovrando secondo le indicazioni di Azure, riuscì finalmente ad aprire la serratura. Entrò, chiuse la porta dietro di sé e accese la lampadina elettrica. Si trovò in un ampio locale dalle pareti dal quale erano addossate due grosse casse di legno chiuse. Erano solidamente costruiti con gli spigoli rinforzati da strisce di lamiera. Jan tentò di sollevarne una, ma riuscì appena a spostarla trascinandola per terra. Ritornato al covo, Jan raccontò a Kazik il risultato della sua spedizione. Decisero di portar via le casse perché era impossibile che non contenessero roba di valore. Jan propose a Baran di prendere parte all'impresa e Baran accettò più che altro per fargli un piacere, perché per principio non si avventurava in imprese la cui posta non fosse ben nota e da tale da compensare con certezza lo sforzo e il rischio. L'indomani Stasci il cocchiere si fermò con la sua carrozza davanti alla casa in questione. Nella carrozza c'era Baran. Gli altri due si trovavano già sul posto e avevano applicato ai lati delle casse delle maniglie di corda per poterle sollevare. Col favore dell'oscurità portarono fuori le casse e caricarono sulla carrozza, dopodiché si recarono a piedi al covo di Kazik presso Caterina Sperda. Stash era già lì ad aspettarli con la rifurtiva. Il peso delle casse aveva perfino danneggiato un po' la carrozza, ma egli si riprometteva una lauta percentuale sull'affare compiuto. Portate dentro le casse e fatte saltare le serrature, si ritrovarono davanti due macchine d'acciaio nuove fiammanti. Dopo un attento esame conclusero che doveva trattarsi di due pezzi di una stessa macchina, che però nessuno riusciva a capire a che cosa potesse servire. Erano tutti mogi e delusi per quella scoperta, soprattutto Kazik e Stasha, ai quali non ne andava mai una giusta. Due giorni dopo apparve sul giornale il seguente avviso: chiunque sia in grado di indicare dove si trovino due casse sparite da un magazzino di via Crescenca 14 e contenenti pezzi di una macchina per fabbricare cartine di sigarette riceverà una mancia di 200.000 rubli. Presentarsi dalle 10 alle 12 all'indirizzo sopra indicato. We'll be right back. Jan chiese consiglio a Baran. Aveva deciso di restituire ai proprietari la macchina per prendere la mancia. Era dunque necessario agire in modo da escludere ogni sospetto sul suo conto. La sua idea era di portare la macchina nei pressi del cimitero militare e di nasconderla in qualche luogo appartato. La mattina dopo si sarebbe recato dai proprietari e avrebbe detto di essersi imbattuto per caso in essa. Ma Baran, dopo averci pensato un po' su, sconsigliò questa soluzione. Non bisogna mai credere a un merlo, sono tutti cani e non c'è da fidarsi di loro. Non puoi trasformare l'acqua in birra né un merlo in un uomo di parola. Eppure vorrei tentare lo stesso. Che prove possono avere contro di me? L'ho trovata per caso, possono dimostrare il contrario? Var la pena di tentare per 200.000 rubli. Baran cercò ancora di dissuaderlo, ma Jan tenette duro. Beh, fa un po' come credi, ma ricordati che è un merlo, se appena può ti mette nel sacco. Per conto mio non voglio più sentir parlare di questa faccenda, anche se dovessi riuscire rinuncio alla mia parte. Nonostante il parere contrario del maestro, Jan e Kasik trasportarono di notte i pezzi dietro il muro del cimitero, li nascosero sotto una siepe. Fu un lavoro lungo e faticoso perché dovettero fare diversi viaggi. All'indirizzo indicato, non senza aver prima messo tutto in ordine in casa sua nel caso dovesse aver luogo una perquisizione. Tutti gli oggetti di valore vennero da lui consegnati alla Lobova, che non mostrò di stupirsene, anche se non le erano chiari i motivi di questa improvvisa decisione. Quando Jan suonò alla porta di via Crescenka 14, venne ad aprire un uomo con gli occhiali basso e tarchiato. Desidera? Sono venuto per l'annuncio sul giornale. Ah, entri pure. Jan fu introdotto in una stanza che aveva l'aspetto di un ufficio o di una biblioteca. Lungo le pareti si allineavano scaffali pieni di libri. Anche su due tavolini erano sparse riviste e opuscoli. Jan raccontò ai due uomini che subito lo raggiunsero di essersi trovato a passare per caso dietro un cimitero e di avervi trovato i pezzi di una macchina. Leggendo l'annuncio sul giornale, aveva supposto che potesse trattarsi della macchina che era stata rubata. Benissimo, avrete il denaro non appena avremo constatato se è proprio la macchina che stiamo cercando, che è sparita da qui l'altra notte. Dobbiamo anche verificare se i pezzi sono ancora in buono stato e se non ne manca qualcuno. I due uomini e Jan salirono subito su un camion dirigendosi verso il cimitero militare, e mentre il vecchio che era venuto ad aprire rimase a casa. Jan indicò il luogo esatto dove aveva trovato i pezzi, che vennero subito riconosciuti dai padroni e caricati sulla macchina. Mentre ritornavano indietro, i due uomini assicurarono più volte Jan che gli sarebbe stata subito versata la somma promessa. Il valore della macchina ascendeva a parecchi milioni di rubli. Inoltre lo ringraziarono, dichiarandosi contenti che il caso avesse procurato a un giovane onesto la possibilità di guadagnare 200.000 rubli. Jan non metteva minimamente in dubbio la buona fede di quelle parole pronunciate con un tono così convincente di sincerità, si riprometteva di rinunciare alla propria parte in favore di Kasik, che una volta tanto non avrebbe avuto da lagnarsi della sfortuna che sembrava perseguitarlo. Il camion giunse a destinazione, tutti ne discesero e rientrarono nella casa. Nello studio si trovavano ora, oltre al vecchio signore, altri due uomini. «Tutto in ordine?» chiese uno di questi ai due che aveva accompagnato Jan. «Sì!» Jan ebbe subito la sensazione di essere caduto in trappola. I nuovi venuti non dovevano essere altro che agenti in borghese. Quello stesso che aveva già parlato si rivolse con fare brusco a Jan. «Favorisca i documenti!» Jan gli porse la carta d'identità. Intanto l'altro li perquisiva accuratamente le tasche. Baran aveva ragione, come sempre, pensò il giovane. Non aveva paura, ma provava una sorda irritazione per essersi lasciato accalappiare in modo così stupido. Cercò di immaginarsi le domande che gli avrebbero fatte e non per non essere colto alla sprovvista. Ma né ci fu interrogatorio né fu steso alcun verbale, dato che i due agenti decisero di far ciò al commissariato di polizia del quartiere dove Jan abitava. I documenti, l'orologio, il temperino e il denaro furono sequestrati. Jan venne fatto salire su una carrozza e condotto in via Dolgobrodka. Il vetturino, che era un simpatizzante della mala, lo riconobbe subito e quando giunsero a destinazione trovò modo di strizzargli l'occhio, come per dirgli che avrebbe avvisato i ragazzi. Così, un'ora dopo, Baran era già informato che Jan si trovava nelle mani della polizia e che si trovava rinchiuso in una cella separata. Verso sera venne consegnato a Jan un pacco di viveri da parte di Maruscia Lobova, a cui Baran aveva subito narrato l'accaduto. Baran sapeva che era l'amante del suo allievo e temeva che un'eventuale perquisizione in casa sua potesse compromettere lei, oltre che aggravare la situazione di Jan. L'arresto di Jan però non spaventò affatto Maruscia. La prima cosa che fece fu di prendere tutti gli oggetti che Jan aveva depositato presso di lei e di sparparlargli un po' dappertutto, negli armadi, nel comò, nelle casse. Poi si affaccendò a preparare il pacco per il suo amico. L'indomani corse da lei Zardon, preoccupatissimo per le sorti del suo esercizio. Le mise in mano del denaro e la supplicò balbettando: «Per l'amor di Dio, se ne occupi lei, io non posso, di soldi ne avrà finché vorrà, prenda un avvocato, insomma, faccia tutto il possibile, non vadi a spese». «Io non ho bisogno di nulla, farò tutto da me», rispose Maruscia. E infatti, affrontò la situazione con tutta l'energia di cui era capace. Ottenne perfino dal commissario il permesso di vedere Jan. L'incontro ebbe luogo nel parlatorio, alla presenza di due agenti e di un funzionario. Maruscia abbracciò con slancio Jan ed egli le raccontò con tutta serietà la frottola del ritrovamento causale della macchina. Maruscia espresse la speranza di vederlo libero al più presto, dato che era evidente che si trattava di un equivoco. Per parte sua avrebbe fatto di tutto per aiutarlo. Ma fin dai primi giorni Jan si rese conto che la sua liberazione non sarebbe stata né facile né sollecita. Per fortuna la perquisizione effettuata in casa sua non aveva dato alcun risultato, tuttavia l'ufficio investigazioni giudicava la faccenda assai seria e aveva deciso, dopo i primi interrogatori, di deferire Jan per ulteriori indagini al commissariato centrale. Ciò significava un lungo periodo di detenzione preventiva, poiché la causa sarebbe stata certamente affidata a un tribunale che, come al solito, avrebbe trascinato le cose per le lunghe. Convinto di aver tutti contro di sé, a cominciare dai proprietari della macchina, Jan si sentì prendere da una profonda tristezza. L'ufficio investigazioni considera assolto il suo compito quando ha nelle mani il colpevole, o in mancanza di questo un povero diavolo che lo sostituisca. E ora ogni sospetto che grava su di lui diventa allora una prova irrefutabile, soprattutto se si tratta di un semplicione poco scaltrito dalle schermaglie della dialettica. Chi di noi è in grado di fornire sempre un alibi convincente per ogni ora della sua giornata? Chi può riuscire a non contraddirsi mai durante i lunghi, snervanti e cavillosi interrogatori? Tutto dipende dalle intenzioni e dalla buona o cattiva disposizione del giudice istruttore nei riguardi dell'accusato. Anche in questo caso, perciò, bisognava assolutamente trovare il colpevole, vero o presunto, e la sorte di Jan, benché non ci fosse alcuna prova contro di lui, era quindi già segnata in anticipo. Jan sapeva che sarebbero anche ricorsi alle minacce e persino alle sevizie se era stato deciso di fargli confessare la colpa. Gli ne cresceva ora di non aver dato ascolto a Baran. Era rinchiuso da pochi giorni e già non ne poteva più dal desiderio di essere libero. Già vive in odio quella cella maleodorante, quel lurido tavolaccio pieno di cimici. Ma la cosa che più lo esasperava era che non la sua, ma la volontà altrui, la sua sorte. Take me far. Di notte Jan non riusciva a chiudere occhio. Sedeva sulla finestra a sbarre e fissava il cielo nero come la pece. Su quel tavolaccio le cimici non gli davano un attimo di requie, interrompendo continuamente il suo sonno inquieto e leggero. Assieme a lui dormivano sullo stesso tavolaccio tre altri detenuti, un contadino col figlio, arrestati per mancanza di documenti che affermavano di non aver mai avuto, salvo il certificato di nascita che tenevano a casa per timore di perderlo, e un fabbro, trovato ubriaco e trattenuto finché non gli fossero svaniti i fumi dalla testa. La cella era riservata a detenuti arrestati per lievi reati e in attesa di essere rimessi a piede libero. Gli altri, invece, venivano tradotti subito al cellulare, sottoposti a stretta sorveglianza in altre celle appartate. La luce nel corridoio era tenuta. Una sentinella vegliava, passeggiando su e giù. Jan sentiva il suo ritmico passo risuonare sull'ammattonato. Appena si avvicinava alla sua cella, si buttava sul tavolaccio e fingeva di dormire. L'interruttore scattava e la cella veniva inondata da una luce violenta che subito si spegneva. Seduto sul davanzale, Jan ne tastava la consistenza. Nel tratto che correva sotto l'inferriata aveva notato che le commessure tra mattoni erano piuttosto sgretolate. L'inferriata era fissata al muro per mezzo di 8 ganci e in basso era staccata dal davanzale di circa 7 cm. Jan notò con gioia che uno dei mattoni vacillava, ma non gli riuscì difficile toglierlo dal muro. I passi della sentinella si stavano avvicinando di nuovo. D'un balzo fu sul tavolaccio e vi si immobilizzò, fingendosi addormentato. La luce si riaccese e di nuovo si spense. Jan, a piedi nudi, si muoveva silenzioso come un gatto. Dallo sportello della stufa riuscì a svitare la sbarra trasversale con la quale lavorò accanitamente per allargare l'apertura dal muro. I mattoni, consumati dal tempo, cedevano facilmente assieme all'intonaco che li teneva uniti. Dopo alcune ore di lavoro, Jan, tutto grondante di sudore ma invasato da una folle speranza, era riuscito a praticare un'apertura dalla quale poteva introdurre la testa. Sapeva dai racconti di compagni che un foro attraverso il quale può passare un braccio e la testa è sufficiente per lasciar passare l'intero corpo. Quando giudicò che il lavoro fosse a buon punto, rimise a posto lo sportello, ripulì il davanzale e, coricatosi, attese che venisse la ora della notte, apriva la cella per l'ispezione. A farlo apposta, quella notte comparve con molto ritardo sull'orario previsto, adempiva la sua funzione svogliatamente, per abitudine, e non gli passava neppure per la testa che qualcuno potesse fuggire, perché non si era mai verificato un caso simile. Finalmente Jan sentì un rumore strascicato di passi e poco dopo l'interruttore scattò, ma questa volta la luce non si spense subito. Jan sentì il suo cuore martellargli nel petto. Da sotto gli occhi socchiusi guardava la porta domandandosi si sarà accorto oppure no. Ma la luce si spense e i passi si allontanarono nel corridoio. Allora si tolse la giacca e la posò sul davanzale, poi infilò la testa e il braccio dentro l'apertura e a poco prese a tirarsi fuori dalla cella. Il passaggio era troppo angusto e la sua camicia andò in brandelli. Tuttavia ormai sporgeva dall'inferriata con le braccia e col tronco. Jan si rammaricava di non aver avuto un po' più di pazienza e di non aver allargato di più l'apertura. La posizione in cui si trovava era tutt'altro che comoda, sporgeva penzoloni fuori dalle sbarre con la testa in giù, senza riuscire a far passare il bacino. Tentò di tirarsi indietro, ma neppure questo gli fu possibile. Se almeno mi fossi tolto i calzoni, pensò con ira, accorgendosi che proprio quelli ti ostacolavano i movimenti. Cercò di non perdere la calma. Muovendo pian piano il corpo, riuscì con grande sforzo a spingersi in avanti, leggermente. Sentiva che la liberazione era vicina e che avrebbe raggiunto quello che così ardentemente desiderava da tanti giorni. Se almeno si fosse riuscito a togliersi i calzoni, si girò fino a ritrovarsi in posizione supina e, allungando una mano attraverso l'inferriata, si slacciò la cintura. Allora, con movimento rotatorio del corpo, a poco liberò i fianchi. Ecco, adesso anche il bacino era passato, ecco, era libero. Si lasciò scivolare a terra appoggiandovisi con le mani, si alzò, afferrò dal davanzale giacca e calzoni e senza indossarli si dileguò nella notte. 11 Uhr sind 20 frische Exemplare eingetroffen. Ein junger Mann und eine junge Frau. Erst am Morgen verstorben. Einschussloch im Kopf. Gliedmaßen abgetrennt, Eingeweide herausgenommen und Menschenhaut zum Trocknen aufgehängt. Questi erano Sid con il brano PlayStation City. Ora si ritorna con l'ultima notizia di controinformazione della giornata e poi la diretta termina qui un po' in anticipo, però abbiamo i nostri impegni e quindi va bene così. Allora, abbiamo letto prima la prima parte delle azioni avvenute in Cile in ricordo di Sebastian Oesluci a Seguel. Ora continuiamo con le azioni che ci sono state nel territorio cileno, andando a Villa Francia, dove c'è stato un attacco incendiario ad un bus all'alba. Poco dopo le 5.30 dell'11 dicembre 2014, gli incappucciati hanno bloccato il traffico con una barricata nello svincolo di Cinco de Abril con Yelcho, sequestrando il bus 509 sul quale salirono, minacciando il conducente di scendere con tutti i passeggeri. Una volta che il bus era vuoto, versarono benzina e fu dato alle fiamme, lanciando poi dei volantini in memoria del compagno Sebastian Oesluci. Poi ora leggiamo la trascrizione degli opuscoli che sono state pubblicate dalla stampa. Agita: speravamo che rimanessimo zitti, che accettassimo tutto come vogliono che resti, ma no, ostinati, illusi per una vita diversa, urliamo per il caos. Angry, questa è una citazione di Sebastian. Oversluci, Sebastian Segel presente. A un anno dalla sua morte, durante la lotta, mentre tentava di realizzare un'espropriazione a Banco Estado a Pudahuel, dove fu ucciso dal mercenario William Vera. A coloro che sono morti di fronte al nemico, non dimentichiamo Claudia Lopez, Maurizio Morales, Johnny Carigheo, Mattias Catrileo, Hanno Vergara, Sebastian Oversluci. Ricordati in ogni azione. Sebastian Oversluci Sagel, compagno anarchico ucciso nella lotta nel tentativo di esproprio di una filaria del Banco Estado a Pudahuel il 13 dicembre 2013. Un anno dopo la sua morte, noi facciamo nostra la sua lotta, senza dimenticare, facendo della memoria un'arma contro ogni forma di autorità. Ricordiamo anche tutti i compagni che sono morti scontrandosi con questo mondo basato sullo sfruttamento e la distruzione della terra. Solidarizziamo con i nostri compagni che sono detenuti, inviando segnali di fumo per far sapere che noi non ci siamo arresi, siamo in guerra. Dopo l'attacco incendiario, il potere ha reagito rapidamente, assegnando il caso al procuratore Claudio Reiana della Procura del Sud, denominatosi esperto in materia di antiterrorismo e esplosivi. Questa volta si materializzò la vecchia minaccia di condensare tutti i reati di natura politica anarchica in una sola divisione e forza, indipendentemente dal contesto, i materiali o la legge che infranga. L'intenzione politica è già stata decisa e quindi la Procura del Sud annunciò nuovamente il suo lavoro con la Fuerza de Tareas de Delitos Complejos della PDE per trovare i responsabili dell'attacco incendiario, oltre a cercare di mettere fine a qualsiasi barlume di offensiva, opposizione e attacco da parte degli anti-autoritari e insorti. In una sincerità sfacciata fu proprio il prefetto José Luis López dell'equipe speciale della PDE a dichiarare la natura politica delle decisioni giudiziarie. La Procura del Sud ha un procuratore di questa natura, non solo di carattere esplosivo ma anche di carattere incendiario. Si potrebbe stabilire che ci sarebbe un legame anarchico insurrezionale del territorio nazionale e in questo ambiente lavora il procuratore Orellana ed assume la responsabilità di questa indagine. Infine, dopo un breve dibattito mediatico, il governo ha deciso di non utilizzare per ora l'uso della legge antiterrorismo e della sicurezza interna dello Stato, contrabbattendo per il reato di incendio, possesso di ordigno incendiario e disordini. E questa era una. Poi sempre a Villa Francia ci sono stati gli scontri con la polizia e fiamme di nuovo ad un autobus. Durante la notte dell'11 dicembre 2014 diversi incappucciati sono partiti da Villa Francia bloccando la strada con barricate incendiate, lanci di pietra e molotov, oltre a spari contro la polizia che era arrivata sul luogo. Circa le ore 21:50 un autobus della linea I-17 è stato intrappolato con un danno elettrico in mezzo agli scontri nella strada 5 di aprile. Il mezzo viene rapidamente svuotato da passeggeri e bruciato con bottiglie Molotov. Alla fine l'ultima azione è stato un blocco statale Manuel Barros Borgogno. Il 19 dicembre i compagni incappucciati decidono di lasciare il liceo Manuel Barros Borgogno bloccando Avenida San Diego e scontrandosi con la polizia e appendendo alla fine uno striscione in memoria di Angry. Striscione che dice: la nostra memoria è nera, il nostro cuore anche. Sebastian Oversluci, Claudia Lopez e Maurizio Morales, nessuno è dimenticato. E questa, con questa ultima azione si conclude qui la diretta odierna, rimandando l'appuntamento con la prossima diretta venerdì 2 gennaio 2015, diretta che come ogni venerdì prevede controinformazioni, riflessioni, provocazioni, ovviamente musica per spezzettare ogni tanto la controinformazione. Con questo è tutto, quindi appuntamento a venerdì, vi lascio al jingle di Radioazione. Radioazione. Radioazione.org. Radioazione. Continuazione, letture, provocazioni, musica. provocazioni. Controinformazione, letture, provocazioni, musica.